giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Gorizia ieri flagellata dalla pioggia, all'alba ha scoperto una voragine di 3 metri circa di diametro in via Cadorna, chiusa ora per consentire le riparazioni. Il comune di Trieste pubblica un bando di 2 milioni di euro per la coprogettazione assieme alle associazioni del terzo settore di un piano freddo per i senza tetto. Mentre infuriano i venti di guerra in Medio Oriente, al Collegio del Mondo Unito di Duino si tesse la fragile tela di una futura convivenza pacifica. Il collegio ospita infatti studenti libanesi, israeliani e palestinesi. Scoperti 44 lavoratori in nero nella ristorazione e nell'edilizia, la Guardia di Finanza di Trieste ha comminato sanzioni per 235.000 euro. Una fabbrica di mattoni dismessa è diventata la sede di un parco fotovoltaico di 20.000 ettari a Remanzacco. Produrrà 38 milioni di kilowattora all'anno. Sarà inaugurato domenica e questa sera si presenta la cittadinanza. Aura, la vettura di Formula 1 completamente elettrica progettata e realizzata dagli studenti dell'Officina di Ingegneria e Architettura di Trieste, sta dando ottimi risultati in pista e sarà presentata a Trieste domani. Buongiorno da Dario Ronzoni e Nada Cioc. Le abbondanti piogge a Gorizia hanno aperto nella notte una voragine in via Cadorna. Si tratta di un buco nella strada di circa 3 metri di diametro. Sentiamo i dettagli. Quasi 3 metri di diametro per un volume totale di una decina di metri cubi di voragine. Gorizia si è svegliata con un fenomeno raro per la città, legato con tutta probabilità anche al maltempo e alle piogge intense di ieri. Un buco nella strada si è creato in piena notte in via Cadorna, nei pressi del monumento al Fante d'Italia. Il cedimento è avvenuto quasi interamente in una zona non transitabile dalle auto. Non sono stati coinvolti mezzi o persone, la via è stata subito chiusa. Il primo intervento tecnico è stato dei vigili del fuoco che hanno verificato l'assenza di tubature rotte che potessero causare un immediato pericolo. Nella mattinata altri sopralluoghi si sono succeduti sotto l'occhio del comune. Sul posto anche Irisacco e Acegas APS AMGA, perché lì sotto passa un cavo di media tensione. Irisacco ha deciso di effettuare una videoispezione per capire le ragioni del crollo. In quella zona c'erano stati lavori per la rete fognaria un paio di anni fa. Lavori straordinari che si erano resi necessari proprio per evitare cedimenti della conduttura. È possibile che la fognatura o l'acquedotto siano in qualche modo all'origine del crollo. Una volta stabilite le cause si interverrà per mettere in sicurezza e ripristinare il tratto stradale. Quello di Gorizia è stato il principale problema legato al maltempo che persisterà sulla nostra regione fino a domani con bora che a Trieste si manifesterà in serata con raffiche anche fino a 130 km orari. Non preoccupano i fiumi che sono ingrossati, in particolare nel bacino dell'Isonzo, dove nella notte era stato superato il livello di guardia prima che l'acqua scendesse. Attesa neve in montagna che potrebbe cadere anche sotto i 1000 metri nel Tarvisiano. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. E diamo uno sguardo al tempo con cielo coperto su tutta la regione, queste le temperature registrate alle 11. A Trieste 14 gradi e 5 decimi, vento di 44 km orari, da est e nord-est, bora, con raffiche fino a 80 km orari. A Udine e a Pordenone 13 gradi e mezzo, a Gorizia 14. A Tolmezzo 10 gradi e 5 decimi, a Forni di Sopra 8 gradi e 5 decimi, a Tarvisio 8, Piancavallo e Sappada 6 gradi e mezzo. Sulla montagna Monte Lussari 1 grado e mezzo, sullo Zoncolan 2 gradi, sulla costa a Grado si sono stati misurati 14 gradi e 5 decimi e a Lignano 14 gradi. Le previsioni dell'OSMER, dell'ARPA FVG, scusate, le avete già sentite in sintesi, probabili nevicate anche abbondanti in alta quota questo pomeriggio, fino ai 1200 metri circa sul Tarvisiano e bora molto forte a Trieste, con raffiche che supereranno probabilmente i 100 km orari. Il comune di Trieste ha deciso quindi di chiudere dal primo pomeriggio i giardini pubblici. E domani cielo ancora coperto con piogge intermittenti da moderate ad abbondanti, in esaurimento nel pomeriggio sera sulla costa e sulle zone orientali. Nella notte al mattino soffierà bora forte, specie a Trieste, dove sarà anche molto forte, fino ai 120 km orari, in deciso calo poi nel corso della giornata. Sui monti probabili nevicate domani, specie al mattino, oltre i 1400 metri circa e fino ai 1200 metri circa sul Tarvisiano. Il Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico continua nella sua missione di costruire un futuro pacifico per le giovani generazioni, insegnando ai propri studenti che provengono da paesi in guerra l'uno con l'altro di non interrompere mai il dialogo. Un angolo di Medio Oriente si relaziona in modo pacifico e costruttivo al Collegio del Mondo Unito di Duino. Tra i 180 studenti iscritti, decine provengono da Israele, Siria, Iran, Iraq, Libano. Ma etnia e religione non rappresentano un problema in questa palestra di diplomazia che il Collegio da sempre rappresenta. Ce lo spiega bene la docente Alice Rustico, docente di Global Politics, praticamente relazioni internazionali. E come si fa a insegnare questa materia in questo momento? Non è una cosa facilissima da insegnare, perché si parla anche di ragazzi adolescenti che vengono da aree di conflitto, ma è una materia che si può insegnare senza dover necessariamente parlare di conflitto, ma magari orientandosi di più verso il parlare di pace. Ed è questo un po' anche uno dei valori alla base dei Collegi del Mondo Unito. Quello che noi facciamo in classe è semplicemente evitare di parlare di chi ha ragione, chi ha torto, chi sono i vincitori, chi sono i perdenti, ma cercare un dialogo dal punto di vista del mettiamoci nei panni dell'altro, immedesimiamoci nel nostro compagno che viene da paesi magari di conflitto, e si crea una discussione molto produttiva normalmente, e i nostri ragazzi ci rendono il lavoro molto facile. Insomma. Lei insegna qui da 8 anni ormai, In questo momento, in questi giorni nello specifico, ma forse anche in passato, momenti di tensione tra ragazzi o domande scomode? Certamente, queste ce ne sono sempre, sono all'ordine del giorno e noi le accogliamo con positività, perché insomma va anche bene mettersi un pochino in discussione. I nostri studenti sono molto bravi a mettere in discussione sia noi insegnanti che loro stessi, però lo fanno sempre in un clima improntato, come ho già detto, al dialogo e non allo scontro, anche se hanno punti di vista diametralmente opposti. Duino, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. A Trieste, con la chiusura del Silos, chi rimane fuori dal sistema di accoglienza, e sono mediamente 160 persone almeno ogni notte, deve dormire in strada, nei magazzini dismessi del Porto Vecchio e in altre soluzioni di sfortuna. Il Comune ha appena pubblicato un bando di 2 milioni di euro per progettare, assieme alle associazioni del terzo settore, un piano che offra l'accoglienza e senza tetto nei mesi invernali. Non si chiama più emergenza freddo il piano del Comune di Trieste per dare accoglienza a chi non ha un posto caldo dove passare la notte, perché le difficoltà delle persone e delle famiglie non si risolvono con l'arrivo della bella stagione. Ora si sta lavorando su un sistema integrato di accoglienza rivolto alle persone senza dimora o in situazioni di grave marginalità, mirato alla presa in carico che ne favorisca anche un percorso di reinserimento sociale. Il Comune ha appena pubblicato un bando del valore di 2 milioni di euro con scadenza in dicembre. L'obiettivo è far partire in gennaio un tavolo di coprogettazione con gli enti del terzo settore, finalizzato all'elaborazione congiunta degli interventi definiti in base alle necessità del territorio. Al momento sono 193 i posti letto offerti alle persone senza fissa dimora, a dicembre ne saranno aggiunti altri 20. Si tratta di spazi gestiti da associazioni ed enti, tra cui San Martino al Campo, la cooperativa Libra, ICS e la Caritas, che gestisce indipendentemente anche il dormitorio in via Sant'Anastasio con 30 posti, e che ci tiene a sottolineare la fatica a trovare risposta ai bisogni che sono sempre superiori rispetto alla disponibilità di risorse e di spazi. Perché le persone in difficoltà hanno anche altre necessità alle quali la cittadinanza risponde creando una rete di supporti come in Piazza Libertà oppure nelle proprie sedi, quella di Sant'Egidio e la Fondazione Lucchetta, per citare solo alcuni esempi. Tra i senza fissa dimora ci sono anche i circa 150 richiedenti asilo che ogni giorno dormono alla Diaccio e che avrebbero diritto ad un posto in accoglienza, una situazione fuori controllo già denunciata nei giorni scorsi dall'ICS e dalle associazioni che si occupano dei migranti. Trieste, Vaciuc, TGR Friuli Venezia Giulia. Le fiamme gialle triestine hanno scoperto 60 lavoratori irregolari, di cui 44 completamente in nero, che lavoravano nella ristorazione. I controlli sono stati effettuati nei mesi estivi nei bar e locali di ristorazione, anche da sport, e nei cantieri edili. Tra i numerosi lavoratori identificati è emerso che i pagamenti di parte del personale sono stati effettuati in contanti, in modo completamente non tracciato. Sono state elevate sanzioni per complessivi 235.000 euro suscettibili di riduzione in caso di regolarizzazione dei lavoratori a 16 imprese è stata avanzata all'Ispettorato del Lavoro proposta per la sospensione dell'attività imprenditoriale per aver impiegato personale non regolare in misura superiore al 10% rispetto a quello regolarmente assunto. La Polizia di Stato di Trieste ha arrestato due 25enni afghani per il reato di tentata rapina in concorso. Il personale della squadra volante è intervenuto per una segnalazione di rissa tra stranieri in Piazza Libertà e grazie alla testimonianza di un turista tedesco che aveva assistito alla scena ha appurato di un tentativo di rapina ai danni di un soggetto di un afgano commesso da due connazionali ancora presenti in loco che lo hanno colpito con pugni alla testa al fine di sottrarli il cellulare dei soldi. Le grida della vittima hanno richiamato l'attenzione dei presenti e provocato la fuga dei due che si trovano ora comunque a disposizione dell'autorità giudiziaria. Il questore di Trieste dal 15 agosto ha emesso 35 misure di prevenzione a carico di persone che hanno evidenziato una pericolosità sociale tale da dover essere contenuta con dei provvedimenti di diffida, ovvero limitativi nell'accesso a esercizi pubblici e a locali di intrattenimento. In particolare sono stati firmati 19 avvisi orali, 11 DASPO urbani e 5 fogli di via obbligatori con divieto di ritorno nel comune di Trieste. Tra questi, un foglio di via è stato emesso nei confronti di un napoletano che è entrato in casa di un ottantenne spacciandosi per avvocato. Aveva raccontato alla donna che la figlia era rimasta coinvolta in un incidente chiedendole contanti e preziosi. Un DASPO urbano è stato emesso nei confronti di un tunisino che all'esterno di un bar in via San Francesco aveva minacciato una donna con un coltello e un DASPO anche per una triestina che in uno stato di ebbrezza davanti a un bar in piazza San Sovino aveva dato in escandescenze nei confronti degli avventori e ha poi minacciato anche i carabinieri intervenuti sul posto. Il sottosegretario alle attività produttive Massimo Bitonci è intervenuto questa mattina al seminario di educazione finanziaria Pordenone Trading Places organizzato dal Comune e dall'Università di Udine. Bitonci ha parlato dell'esaurimento delle garanzie pubbliche post-Covid. Nell'auditorium della Regione a Pordenone si è fatto il punto sul percorso di smontaggio delle garanzie pubbliche collegate alla pandemia con il sottosegretario al Ministero delle Imprese del Made in Italy, Massimo Bitonci, ospite di PN Trading Places, il festival dell'educazione finanziaria in corso fino al 9 novembre, organizzato dall'Università di Udine e dal Comune di Pordenone. Quali scenari si aprono dopo il venir meno delle garanzie pubbliche sul credito alle imprese? Alberto Maria Camilotti è presidente di SAF Triveneta. È un momento critico perché il cercare e l'ottenere credito da parte dell'impresa è stato fino al 30/6/24 agevolato dal framework che permetteva la garanzia pubblica su determinati finanziamenti. Il venir meno di queste garanzie pubbliche apre scenari che oggi ancora non conosciamo. I peggiori sono di due ordini. Il primo è quello da parte di alcune imprese di non essere in grado di ritornare i finanziamenti che sono stati erogati nel passato grazie alla garanzia pubblica. Il secondo è quello che esaurendosi i finanziamenti che sono stati concessi con garanzia pubblica, determinate imprese non abbiano la capacità di tornare nel mercato del credito a riottenere finanziamenti per nuovi investimenti. Su questo molto probabilmente diventerà fondamentale il ruolo futuro dei Confidi. Il sottosegretario Bitonci, padre della riforma del fondo di garanzia, conferma l'estensione del sistema dei Confidi per agevolare l'accesso al credito, specie delle piccole imprese. Abbiamo già visto che nei primi mesi di quest'anno è aumentata l'operatività dei Confidi. Quindi anche proprio ieri ho avuto un incontro con ABI e abbiamo deciso di aumentare l'operatività ancora per il 2025, quindi aumenteremo l'importo ridotto da 80 a 100 mila euro. Perché i Confidi stanno, come avevamo previsto, occupando quello spazio che viene lasciato libero dal sistema bancario. Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. A Rimanzacco è tutto pronto per l'avvio del parco fotovoltaico Fornasilla, costruito sul luogo dove sorgeva una fornace per la produzione di mattoni con coperture in Eternit e dismessa da più di 30 anni. L'inaugurazione è prevista il 10 ottobre, stasera alle 20.30, si terrà un incontro pubblico alla sala polifunzionale di Cerneglons per illustrare le caratteristiche del parco solare con l'ingegnere Paoli Malsiner che parlerà dei costi sostenuti, delle bonifiche effettuate e dell'energia che sarà prodotta. Lo abbiamo intervistato. È stato trovato e individuato questo sito che diciamo da 20 anni era fermo, non c'era attività industriale, abbandonato, praticamente conseguenza era diciamo così un po' lì lasciato perso. l'abbiamo ritenuto come un sito potenziale per lo sviluppo di un parco fotovoltaico, così ci siamo messi in contatto insomma con l'amministrazione comunale per insomma fare questa proposta di progetto. Avete dovuto provvedere anche alla bonifica del sito? Allora, sostanzialmente diciamo c'era chiaramente presente le coperture di amianto della fabbrica che diciamo erano in amianto, quindi è stata necessaria un importante intervento di bonifica. E per il resto avete anche delle opere di mitigazione che vi sono state chieste dal comune? Sì, corretto, diciamo ci siamo messi sin dall'inizio in contatto con l'amministrazione comunale per condividere il progetto, che poi diciamo ha chiesto chiaramente dei adeguati mascheramenti, delle mitigazioni ambientali, le quali poi diciamo abbiamo condiviso nell'ambito del progetto e le abbiamo autorizzate e poi anche realizzate. Quanta energia produrrà il parco solare? Complessivamente 38 milioni di kilowattora all'anno circa. Più o meno significa il consumo equivalente annuale di 15.000 circa famiglie. L'energia prodotta viene immessa nella rete di distribuzione locale e poi diciamo sono stati fatti degli accordi per la vendita dell'energia con dei fornitori e dei distributori di energia locali. Sul parco sono installati circa 60.000 pannelli, una dimensione circa di 20 ettari, 22 ettari, di cui 2 ettari sono appunto parte della mitigazione del progetto. Unins Racing Team sta vincendo premi e riconoscimenti per la sostenibilità con Aura, la vettura di Formula 1 completamente elettrica, progettata e realizzata dagli studenti nell'Officina di Ingegneria e Architettura dell'Università di Trieste. Sabato 5 ottobre sarà presentata nell'ambito della Barcolana. Nel servizio le interviste agli studenti Enea Gerdol e Francesco Sonego, al direttore del Dipartimento di Ingegneria e Architettura Paolo Gallina. Sono Lea Gerdol, sono studente di ingegneria e sono il direttore tecnico dell'Unitas Racing Team. Sono Matteo Caliger e sono il direttore economico dell'Unitas Racing Team. Sono Nicolò e sono responsabile dell'aerodinamica dell'Unitas Racing Team e sto studiando al momento alla magistrale di ingegneria. Questo è l'Uniz Racing Team che ha progettato e realizzato Aura, la vettura monoposto completamente elettrica. Siamo nell'officina del Dipartimento di Ingegneria e Architettura di Trieste, dove si sta lavorando per la presentazione ufficiale di Aura, che si terrà sabato 5 ottobre allo stand di Barcolana. L'auto ha una velocità massima di 130 km/h, riesce a fare 0-100 in circa 4 secondi. Stiamo parlando di una potenza nominale, di una potenza massima di 100 cavalli. L'auto è interamente elettrica con il pacco batteria sviluppato da noi. In realtà Aura è uscita dall'università in settembre quando ha vinto il premio Formula SAE a Verano per aver puntato sulla sostenibilità utilizzando il lino al posto del carbonio. Si respira aria di entusiasmo nell'officina dell'università dove i ragazzi mettono in pratica quello che studiano sviluppando tutte le altre competenze che sono essenziali nel mondo del lavoro. Se dovessi riassumere tutto in una parola, entusiasmo. L'entusiasmo è la benzina che hanno e che fa andare avanti la macchina. Anzi, l'energia elettrica, visto che è una macchina elettrica, non la benzina. Ci sono molte cose da imparare, loro stanno elaborando qualcosa mentre stanno studiando e quindi non ci aspettiamo la perfezione, però con l'entusiasmo si può compensare tutto. I membri dell'Uniz Racing Team sono ragazzi che si impegnano e che hanno anche le idee ben chiare sul futuro. Le sfide future sicuramente sono quelle di consolidare il team, strutturarlo ulteriormente sia dal punto di vista finanziario ma anche dal punto di vista dell'accumulo del know-how ed inoltre anche cercare di essere sempre più sostenibili e vicini alla comunità sociale di Trieste. Eva Ciuc, TGR Friuli Venezia Giulia. Filt CGIL ha proclamato lo sciopero di 2 ore oggi a Udine dalle 17.30 alle 19.30 per il personale di arriva. L'astensione del lavoro serve per dire basta alle aggressioni nei confronti di autisti e del personale viaggiante in seguito all'ennesima aggressione subita da un autista in servizio schiaffeggiato lunedì scorso nel piazzale antistante la stazione ferroviaria di Udine e a chiedere anche misure preventive adeguate. Presentati i prossimi 2 mercoledì del placement, appuntamento dedicati a studenti e laureati dell'Università di Udine che potranno incontrare 20 aziende. 17 fra aziende del territorio di livello nazionale e internazionale, ma anche enti pubblici, ordini professionali e perfino la protezione civile, per un totale di oltre 200 opportunità di lavoro. E quanto proporrà l'Università di Udine a studenti e laureati per agevolare il loro inserimento lavorativo nei due prossimi mercoledì del placement dedicati ai settori scientifico, tecnologico ed economico? Marco Sartor, delegato al placement e ai rapporti con le imprese dell'Università di Udine. Sono delle piccole sfere del lavoro che noi organizziamo nei diversi dipartimenti dell'università e quindi di fatto portiamo aziende che sono interessate ai specifici corsi di laurea che l'Ateneo offre. Nel corso degli incontri i partecipanti potranno sostenere colloqui individuali con i rappresentanti aziendali e consegnare i loro curricula. I servizi di placement dell'Università di Udine sono stati attivati 12 anni fa e quindi in 12 anni abbiamo organizzato qualche centinaio di eventi di placement. I risultati sono molto positivi, tanto che vanno sempre sold out. Il nostro obiettivo, sottolinea il prorettore Andrea Caffarelli, non è solo quello di laureare il maggior numero di studenti nel minor tempo possibile, ma di far sì che questi studenti, al termine del percorso di studi, trovino una posizione lavorativa gratificante. Il primo mercoledì si terrà il 16 ottobre nel Polo Scientifico dell'Ateneo e riguarderà i dipartimenti del Politecnico di Ingegneria e Architettura e di Scienze Matematiche, Informatiche e Fisiche. 8 le aziende ed enti che parteciperanno per un centinaio di posizioni aperte. Il secondo, il 23 ottobre, nelle aule del Polo Economico, offrirà 110 opportunità lavorative per laureati e studenti del Dipartimento di Scienze Economiche. Udine, Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia. Il pubblico del Rossetti è entusiasta del capolavoro di Goldoni, signor Todero Brontolon, protagonista con Branciaroli, che ha alzato il sipario sulla 70esima stagione del Teatro Stabile del Friuli, Venezia Giulia. Rose, brindisi e sorrisi, si alza il sipario sulla stagione numero 70 dello Stabile del Friuli Venezia Giulia e nel suo teatro il Rossetti di Trieste regala agli spettatori un magnifico signor Todero Brontolon, capolavoro di Goldoni. Tutti in sala e il primo applauso per l'inno d'Italia. Goldoni che torna esattamente come 70 anni fa ad aprire la stagione del Rossetti. Signor Todero Brontolon, firmato dal direttore e regista Paolo Valerio, è godibile, divertente e sorprendente, come il suo protagonista Franco Branciaroli nei panni del vecchio Brontolone prepotente avaro. Una volta che sei vecchio e più o meno sai recitare, signor Todero Brontolon lo si fa, non è così difficile. Ma a tirare i fili della commedia sono le donne. La protagonista di questo testo non è il signor Todero, so perché si chiama il signor Todero, protagonista secca è Marcolina. E Goldoni ha sempre amato più le donne degli uomini, le donne sono sempre viste come creature superiori. I figli appunto sul palco assieme a una compagnia di ottimo livello con Marcolina, Maria Grazia Plos da applausi, ci sono anche le marionette di Podrecca. Il regista Paolo Valerio. Nei memoir di Goldoni lui racconta che quando aveva 4 anni suo padre gli fece un grande regalo, gli fece assistere a uno spettacolo di marionette e da allora nacque l'amore di Goldoni per il teatro, quindi il legame fortissimo è questo. Le marionette, alter ego degli attori, a rappresentare la parte magica e sospesa del teatro. La regia di Valerio convince e conquista, grazie anche alla sensibilità contemporanea della messa in scena, nella raffinata lingua di Goldoni, il veneziano, e alla magistrale interpretazione di Branciaroli, magnifico signor Todero Brontolon, a Rossetti fino a domenica 6 ottobre. Trieste, Marinella Chirico, TGR Friuli Venezia Giulia. È partito nella serata di ieri dal Teatro Verdi di Trieste il nuovo tour musicale della Ceman Orchestra, l'ensemble dei giovani talenti musicali europei, di cui è capofila il Conservatorio Trentartini, forte di 47 musicisti scelti fra le eccellenze delle istituzioni di alta formazione musicale del centro Europa. Beyond the Borders, oltre i confini, è il filo rosso della nuova produzione su grandi pagine di Mozart, Beethoven e Paganini. Il nuovo allestimento viaggerà nel cuore del continente, arrivando a Praga il 9 ottobre, dopo le tappe a Parenzo, Grisignana, Koprivnica, Budapest e Bratislava, toccando quindi le città più rappresentative della mite Europa nel segno della comune cittadinanza europea. Questo è il messaggio che porta attraverso le sue note l'orchestra giovanile guidata questo autunno dal maestro Olsi Cinami, direttore stabile e musicale della London City Philharmonic, mentre sul podio del concerto finale di Praga ci sarà Romolo Gessi, direttore musicale della Ceman Orchestra. E nell'anno che vede l'Albania alla presidenza dell'INCE, l'organico dell'orchestra si completa con il violino solista di Laura Ljosi, 25enne artista albanese, pluripremiata in numerosi concorsi internazionali e primo violino solista dell'orchestra della radiotelevisione albanese. E con questa notizia chiudiamo questo giornale radio che è stato condotto e redatto da Dario Ronzoni e Nada Cioc, con la collaborazione tecnica di Roberto Cavallari e Caterina Cabrelli. Ha collaborato in redazione Daniela Sossi. Da tutti noi l'augurio di una buona giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.